Il nostro programma inizia così, allegro e frizzante. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. Siete belli freschi, dite la verità, perché qualcuno dice il freddo tonifica anche i pensieri, qualcuno dice, ma insomma col ditino, no, ma che toni, ma cosa dici? Però effettivamente c'è, no, anche questo schieramento come in politica, chi proprio ha bisogno del caldo a 45 gradi all'ombra come me e chi invece dice il freddo mi ritempra, insomma. Spero che siate molti tra voi con il freddo a proprio vantaggio, così insomma in questo periodo diciamo che sarebbe una cosa positiva, e quello che però mi auguro è anche che possa in qualche modo tenere svegli i pensieri un po' di tutti, perché lo sapete, questo è il mio appuntamento con voi e poi con l'opinionista estemporaneo ogni volta diverso, per raccontarci i fatti della settimana, per ritornare su tutte le notizie e esprimere liberamente le proprie opinioni. Il numero verde, ve lo dico dall'inizio, 800 24 00 24. Quante cose questa settimana, intanto tutta l'Italia è in tilt, ci sono treni bloccati, uno da 18 ore addirittura, questi poveretti. Se qualcuno avesse, diciamo così, l'idea straordinaria, geniale di sentire la radio, Radio 24, non ci sono più le mezze stagioni, in questo momento in treno collegatevi direttamente, chiamate l'800 24 00 24 e così raccontate un po' in diretta che cosa sta succedendo. Caos soprattutto a Roma, forse erano impreparati, sicuramente non è che nevichi spessissimo a Roma, però protezione civile, la solita coda, scia di polemiche, anche se leggevo che in realtà c'era tutto un paragone, un confronto mi pare sul Corriere della Sera due giorni fa, che anche gli altri paesi, persino gli Stati Uniti, quando nevica in modo così cospicuo non se la cavano benissimo, la Germania stessa ha avuto diversi blocchi dei trasporti e così via, certo non è che mal comune mezzo gaudio, però insomma per dire siamo proprio così sgarupati, ecco, però forse qualcosina di più si potrebbe fare, un po' di efficienza in più. Le notizie comunque sono moltissime, non solo il tilt, poi tanto per stare su questioni positive, l'Istat che ha fatto di nuovo il quadro della disoccupazione in Italia, disoccupazione record per quanto riguarda i giovani, uno su tre non trova lavoro, con poi tutta un'altra polemica anche lì, su, cioè, una caduta di stile probabilmente del Presidente del Consiglio, e ne parleremo. Il fisco dice è pronto il redditometro, quindi mi raccomando, poi bisognerà un po' informarsi e ingegnarsi per compilare questo redditometro che veramente contiene tante voci. Giustamente, se questa volta si vuole fare una lotta dura, vera e concreta all'evasione fiscale, che è un male, una magagna, una piaga del nostro paese da tanti anni, bisogna prendere diverse misure, probabilmente anche come queste. Il caso Lusi, l'ex senatore della Margherita, poi senatore del PD, che insomma gli servivano questi soldi, li ha presi 13 milioni almeno di euro dalle casse del partito, che poi sono contributi statali, paghiamo noi praticamente per i rimborsi ai partiti. Poi è stata votata con sconfitta del governo la responsabilità civile dei magistrati, è una questione un po' complessa, e poi vediamo se riusciamo un po' a raccapezzarci in questa questione, però quasi significa che il fatto che sia stata votata questo emendamento di un esponente leghista, che sia ricompattata sotto questa cosa, con il voto segreto, la maggioranza, l'asse, il cosiddetto asse del no, il PDL e Lega. E la Corte di Cassazione, straordinaria, vi ricordate, la terza corte, sezione della Corte di Cassazione, era quella che aveva detto anni fa che non c'era stato stupro, la sentenza, no, con una ragazza, perché aveva i jeans, perché effettivamente quando si vuole violentare una ragazza, strappare i jeans diventa un po' difficile, quindi anche se poi la violenti c'è qualcosa che non va, qualcosa che non torna. Che cosa ha deciso? Che per lo stupro di gruppo ci possono essere misure diverse dalla custodia cautelare in carcere. Poi vedremo se qualcuno ha delle buone proposte in questo senso, e questo significa per l'ennesima volta che in Italia non è considerato un vero reato, è più reato rubare qualcosa al supermercato oppure manifestare in piazza in modo diciamo un po' accalorato, ma lo stupro di gruppo, così come lo stupro, insomma non è, devo dire, per fortuna c'è stata un'indignazione generale, trasversale, donne e uomini di destra e di sinistra e di centro hanno contestato questa sentenza. E poi la scomparsa dell'ex presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro, insomma tantissime, 800 24 00 24. E cosa ci conferma questa settimana che non ci sono più effettivamente le mezze stagioni? Non ci saranno più le mezze stagioni, ma neanche le intere. notizia è questa che arriva dagli Stati Uniti. Basta con le interminabili e stancanti riunioni tra manager, quadri, vertici delle grandi compagnie americane. C'è una nuova tendenza in fatto di politica aziendale. D'ora in poi le principali decisioni all'interno delle società si prenderanno in piedi. Basta con le poltrone, basta con le seggioline, basta seduti sui tavoli. Si sta diffondendo infatti negli Stati Uniti questa consuetudine di mettere al bando nelle sale riunione delle varie società appunto le poltroncine, sedi eccetera, considerate sinonimo di pigrizia e poi di lungaggine. Sta lì distesi, seduti, ci si rigira per delle ore. Invece no, in piedi per accorciare i tempi, anche perché secondo gli esperti serve stare in piedi a stimolare maggiormente l'attenzione e l'interattività dei partecipanti. Avete sentito? Potrebbe essere un'idea. Volete sapere chi è l'opinionista estemporaneo di oggi, signore e signori? Tito Boeri. Buongiorno. Carissimo Tito, hai fatto qualche pupazzo di neve tu? No, perché a dire il vero la neve qui a Milano è piuttosto ghiacciata. Quindi... Ora sì, però giorni fa era bella soffice. Io sono andata a correre nel parco, che è stata un'esperienza spirituale, no? Sembrava, mi sentivo un leprotto dentro la neve che sembrava zucchero. Quale parco? A Milano non è che ci siano tanti parco Lambro. Parchi. Vabbè, se non forse lì allora c'era qualche possibilità in più. O è che gli economisti non fanno i pupazzi di neve, magari essendo persone un po' serie. No, assolutamente no. Quando si può farli sono belli da fare. Tra l'altro la cosa bella invece di Milano in questi giorni è che nonostante la nevicata così forte e nonostante insomma il freddo intenso che ha immediatamente trasformato la neve in ghiaccio, comunque le strade sono pulite. Sì, devo confermarlo, è vero, non ci sono state difficoltà da quel punto di vista. Forse perché noi rispetto a Roma siamo del nord, siamo più noi mangiamo la neve a colazione, si può dire, Tito, possiamo dirlo, lì non sono abituati. Sì, certamente. Mi è capitato 2 anni fa di essere a Washington quando c'è stata quella nevicata pazzesca e confermo il fatto che Washington era completamente bloccata. Paralizzata anche loro, visto? Pure nevica spesso lì d'inverno, c'erano certi freddi. Beh, Washington non poi così non tanto. Non tanto, New York. Anche loro avevano in parte una giustificazione, mentre no, altre città americane, Chicago, anche New York, eccetera, sono cose, eventi molto più frequenti, quindi sono molto più equipaggiati. Bene, Tito Boeri, uomo di mondo, ci ha confermato, insomma, che anche negli Stati Uniti hanno le loro difficoltà quando nevica. Tito Boeri, notissimo economista, docente all'Università Bocconi di Milano e direttore della Voce.info. Volevo farti questa domanda cruciale, caro Tito. E tu sai che c'è stata la presentazione nei giorni scorsi di un libro di Antonio Razzi, sai, l'ex di Italia dei Valori, poi passato al PDL, il famoso 14 dicembre per sostenere il governo Berlusconi quando rischiava di cadere, i vari responsabili, no? Scilipoti, sì, Razzi, sì, eccetera, sì. Eccetera. Poi abbiamo visto quanto responsabili fossero. Ecco, a seconda appunto delle loro. Ma io ti volevo chiedere questo che è importante. Allora, pare che Scilipoti, essendo in giro per il mondo per questioni sue di rappresentanza, eccetera, abbia mandato alla presentazione del libro di Razzi, dove c'era naturalmente anche Berlusconi, perché devono notare questa strana coincidenza che da quando i responsabili hanno sostenuto l'ex presidente del Consiglio hanno scritto poi dei libri, si sono sentiti in dovere di scrivere dei libri e di avere come presentatore anche il presidente del Consiglio. Ma la domanda è un'altra: Scilipoti, essendo in giro dall'altra parte del mondo, ha mandato lì un sosia? Secondo te questa notizia è drammatica, che Scilipoti abbia anche un sosia? No. Beh, vorrebbe dire che lui ha appunto il dono dell'ubiquità. Ecco, se fosse così davvero sarebbe una notizia drammatica. Penso che finché scrivono libri comunque sono assai meno, sono più innocui che rispetto alle cose che facevano in precedenza, quindi quello sarebbe uno sviluppo positivo, però certamente se potesse apparire in più posti al tempo stesso, ecco, questo potrebbe essere qualcosa di cui davvero preoccuparsi. Ma poi l'ex presidente del Consiglio Berlusconi ha detto che Antonio Razzi è un cavallo di razza. Secondo te, se è sbagliato con la vocabola, dire è un cavallo di Razzi, essendo Razzi, forse prima qualcuno l'ha contestato. È probabile. Un'altra domanda, Tito, tu sei un tipo che si annoia di solito? Mi annoio, dovrei annoiarmi se appunto avessi a quanto pare un lavoro precario. Ecco, la cosa che davvero mi è sembrata singolare di quell'affermazione è che voleva in qualche modo convincerci del fatto che sia meglio avere un lavoro precario che un lavoro fisso. Per fortuna poi il Premier si è corretto su questo aspetto, devo dire. È stato proprio un errore, una caduta di stile. Cioè, che si poteva evitare in quei contesti, quando si parla abbastanza lungo, si può ogni tanto anche inciampare. Allora, guardavo tre giornali molto diversi tra loro, adesso vediamo se riesco a riacchiapparli con la mano. Beh, il Fatto Quotidiano, che titola troppo B puntato, sai che B puntato ormai per il Fatto Quotidiano Berlusconi, troppo B nel governo Monti. Poi il Manifesto che dice Monti fa il Berlusconi e ci riprova sull'articolo 18, e poi c'è Libero invece che scrive ciao sinistra, è nato il Berlus Monti, Monti ormai parla da leader della destra. Quindi tre giornali molto diversi che stanno dicendo che praticamente Monti è allineato, diciamo, su posizioni di destra. Tu cosa ne pensi? Penso che nei confronti di questo governo c'è in questo momento un'attenzione particolare da parte anche della classe politica, che si sente in qualche modo scavalcata e quindi ne approfitta in ogni occasione per cercare di fare qualche trabocchetto. Abbiamo visto con i voti in questi giorni in Parlamento, che sono stati appunto dei voti di franchi tiratori che hanno votato contro il governo in più di una occasione. E poi ci sono certamente anche dei risentimenti che possono affiorare proprio da parte di esponenti politici che si sentono in qualche modo messi in secondo piano, quindi questo è qualcosa che questo governo troverà sempre sulla sua strada, proprio per il fatto di essere nato come un governo che non è diretta espressione, diciamo, di alcun partito. Detto questo, è un governo che deve andare avanti a fare le cose che deve fare, perché nel momento in cui si dovesse interrompere, questo immediatamente lo renderebbe fortemente attaccabile. È indubbio che il governo sin qui abbia fatto tantissimo. Se guardiamo a quello che è stato fatto dai governi precedenti, questo governo ha fatto per esempio queste liberalizzazioni a gennaio, ha fatto un intervento sulle pensioni, per quanto uno possa ritenerlo criticabile, ci voleva del coraggio, della determinazione per fare azioni di questo tipo, quindi ha fatto già tantissimo, però non deve assolutamente fermarsi, deve assolutamente andare avanti e deve evitare che ciò che fa venga poi, quando passa al passaggio parlamentare, venga ridotto ed efficace. Qui mi riferisco ancora al decreto sulle liberalizzazioni, che sta perdendo un po' di pezzi in questi giorni, e bisogna assolutamente evitare che questo avvenga. Quindi nel momento in cui il governo mostra delle indecisioni viene immediatamente attaccato. La gestione anche della vicenda del mercato, della riforma del mercato del lavoro, che è davvero fondamentale per il nostro paese, anche su questo ci sono state un po' di esitazioni, non si capiva bene, tuttora non è del tutto chiaro quale Infatti, sia la strategia. Ecco, e dopo io ti devo fare una domanda molto importante anche su questo tema. Prima c'è all'800240024, che è il numero per voi ascoltatrici e ascoltatori, 800240024, Lucia da Vicenza, ma siccome, cara Lucia, abbiamo proprio la viabilità lì alle porte, me lo dice Pietro Lacorte alla parte tecnica, mi dici solo l'argomento e poi ne discutiamo subito dopo, Lucia? Sì, pronto? Sono io, sì, pronto. Ciao, niente, siccome mi fa molto arrabbiare questo fatto di sti ragazzetti che se la cavano sempre, perché non facciamo una cosa, noi ragazzi ci mettiamo d'accordo, li prendiamo, li mettiamo in una stanzetta e con una forbicina facciamo vedere cosa potrebbe succedere a loro? Di cosa stiamo parlando, Lucia? Dello stupro di gruppo. Allora, diciamo, Lucia al numero verde 800240024 per parlare delle notizie della settimana. La tua, Lucia, mi pare si riferisse appunto alla sentenza della Corte di Cassazione sullo stupro di gruppo, no, Lucia? Certamente. Loro se le cavano sempre comunque, perché c'è comunque quel maschilismo che continua. Noi dovremmo essere più convinte e sicure di tutelare i nostri diritti di donne e di femmine. Non è possibile che venga sempre così preso di sottogamba queste cose molto molto gravi, che dopo si ripercuotono continuamente nella vita delle persone. Lucia, certo, e questa è una questione proprio culturale di questo paese, ancora prima di qualsiasi altro tipo, no, sociale, politica, eccetera eccetera. E citavo prima appunto la famosa sentenza, quella sui jeans, e la stessa terza sezione della Corte di Cassazione aver preso questa decisione. E devo dire, non è stata tanto una questione di opinioni, come ricordavo prima dall'ex ministra delle pari opportunità Mara Carfagna, che ha detto assolutamente non è condivisibile, contro le donne questa sentenza, altra ex ministra ma del PD, Pollastrini, che ha detto Anche lei ha parlato, come anche Alessandra Mussolini, di sentenza aberrante. Lo stesso ministro Maroni, che aveva invece cercato di dare un giro di vite, no, su questo tipo di reato. E tutto questo succede, fra l'altro, in un paese, leggo alcuni dei dati di questi giorni, dove ci sono 100 donne che ogni anno vengono uccise per mano del proprio marito o del proprio compagno, ex compagno. Quindi significa, facendo un calcolo, una ogni 3 giorni più o meno, vi rendete conto? Questo che è stato definito da alcuni, anche da un libro famoso, femminicidio. Poi 1 milione di donne che hanno subito uno stupro sono state oggetto di un tentato stupro in Italia. Ci sono 1 milione di donne viventi, non, quindi non fa parte del passato, attualmente. 1.400.000 le donne che hanno denunciato di aver subito una violenza sessuale prima dei 16 anni di età, e ricordatevi che sono meno della metà quelle che denunciano, 10.485.000 le donne che hanno subito nell'arco della vita ricatti sessuali sul lavoro o molestie varie, insomma andando avanti così senza sosta, e sono anche delle percentuali tra stranieri e italiani che compiono questo tipo di reato abominevole, sono per il 60% italiani e il 40% stranieri. Cosa ne pensi tu, Tito Boeri? Penso anch'io che sia una sentenza molto grave, soprattutto perché rischia di ridurre la spinta a denunciare, certo, episodi di questo tipo, perché davvero sono purtroppo ancora più frequenti di quelli che noi vediamo dalle statistiche, e c'è ancora un atteggiamento culturale nel nostro paese per cui queste cose vanno in qualche modo messe a tacere, non rivelate, non dette, non denunciate, e quindi questi comportamenti continuano a essere presenti. E se noi abbiamo delle sentenze di questo tipo, è chiaro che le donne vittime di episodi di questo tipo avranno meno, così, si sentiranno meno sostenute quando devono giustamente far valere le loro ragioni e denunciare chi ha compiuto questi atti abominevoli, e che spesso non si fa, ricordiamo, neanche un giorno di carcere, ricordiamo questa cosa. Fra i commenti tanti su tanti argomenti sulla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni questa settimana, anche a proposito di questo argomento, per esempio Germana dice: si rimane senza parole. Dario ha scritto: è talmente assurdo che non riesco a trovare le parole per descrivere il mio stato d'animo, no? È bello che gli uomini dicano questo. Filippo propone la castrazione. Devo dire che gli uomini sono ritornati a proporre questo, anche se, sapete, si è parlato per tanto tempo della cosiddetta castrazione chimica, che sarebbe farmaceutica. Giulia scrive: avrei proposto anche un premio per l'estrema sensibilità della castrazione. Chi può arrivare a un più alto gradino di ottusità? Corrado: passerei la palla, anche lui dice, alla castrazione. Dora: mandare questi giudici in alcune sapienti mani. E poi altri commenti, li vedremo anche su vari altri argomenti. Ma prima di sentire Piero da Belluno, ti volevo chiedere, Tito, c'è una cosa che io non riesco a capire, sarà ovviamente mia ignoranza, mia impreparazione, lo riconosco, io non riesco a capire come sia possibile creare occupazione eliminando l'articolo 18, che è quello che garantisce la possibilità di licenziare se non c'è la giusta causa nelle aziende che hanno sopra i 15 dipendenti. Com'è possibile che levando quell'articolo si crei occupazione? Me lo spieghi tu? Di non parlare più dell'articolo 18, perché davvero è qualcosa di fuorviante in questo momento. Però ci è ritornato Monti anche ieri. Quando in realtà ci sarebbero delle soluzioni pragmatiche alla portata del consenso che si può raggiungere nel paese, che davvero affronterebbero il nodo di fondo oggi in Italia, è quello di avere questo dualismo così profondo nel mercato del lavoro, per cui abbiamo soprattutto giovani, ma ormai purtroppo non sono soltanto giovani, che hanno una situazione lavorativa molto penalizzante rispetto agli altri, perché sono pagati di meno, hanno lavori più instabili e quando perdono il lavoro non vengono minimamente assistiti. E poi abbiamo invece dei lavoratori che sono in una condizione diversa, sono più tutelati, anche loro non è che guadagnino tantissimo, ma comunque guadagnano di più dei lavoratori meno tutelati, e quando perdono il lavoro comunque hanno delle forme di protezione dell'impiego. Noi dobbiamo unificare questi due segmenti, perché facendo questo noi riusciremo anche a migliorare la produttività del lavoro. Ma c'entra l'articolo 18? C'entra questo articolo 18? C'entra, no, non c'entra, c'entra solo in parte, ecco, diciamo in che cosa c'entra l'articolo 18. Il problema è che oggi in Italia ci sono delle asimmetrie così forti tra queste due situazioni, che quando un datore di lavoro deve decidere chi chi assumere e come assumere questo lavoratore, tende a mettere a pensare: se io gli offro un contratto a tempo indeterminato, io devo prendere un impegno molto forte nei confronti di questo lavoratore, perché se poi io domani mi rendo conto che non è la persona adatta e quindi decido di licenziarlo, e stiamo parlando poi di licenziamenti individuali, io devo pagare un'enormità, perché con l'articolo 18 il datore di lavoro può arrivare a pagare fino a 36, attenzione, l'articolo 18 in realtà si monetizza, per cui alla fine non c'è la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, normalmente si arriva ad una transazione, il datore di lavoro paga al lavoratore queste 36 mensilità. E uno dice, un datore di lavoro dice, prima di dargli quindi un contratto a tempo indeterminato, io voglio essere sicuro che sia un lavoratore con le qualità richieste. Non ci può essere un periodo di prova invece di eliminare l'articolo 18. Esattamente, quindi la cosa che bisognerebbe fare semplicemente è quella di avere un periodo iniziale di un contratto già a tempo indeterminato fin dall'inizio, che crea gradualmente delle tutele che crescono nel corso del tempo, quindi più il lavoratore rimane nell'azienda, più il datore di lavoro lo conosce, si rende conto delle sue qualità e a quel punto si convince della sua scelta, più tra l'altro investe anche nella formazione del lavoratore, più il lavoratore diventa protetto. Mi sembra molto ragionevole. Ad avere anche queste protezioni forti dell'articolo 18. Sarebbe un modo davvero per evitare di avere questi due regimi, perché a quel punto si entra tutti in quel modo, è un modo per dare più lavoro anche alle persone, attenzione, che hanno più di 50 anni, perché in Italia non è ancora un problema serio, ma adesso anche con la riforma delle pensioni che allunga l'età lavorativa diventerà un problema. Sul campo più a lungo e deve avere anche un lavoro per arrivare prima o poi alla pensione. Senti, poi continueremo anche in base a quello che diranno i nostri ascoltatori, Tito, all'800 24 00 24, c'è Piero da Belluno, Antonio da Vicenza, Astero da Bologna, ma come sapete questo è l'unico programma nell'universo che ha anche a un certo punto un collegamento con un altro pianeta. Riflessioni da Marte. Diciamolo, è lampante persino da quassù, da Marte. Nella penisola italica non ci si annoia davvero mai. Specialmente non si annoiano i tanti che non hanno il posto fisso. L'ha detto anche il prof Monti, che avere il posto fisso è una vera monotonia. Poi si è corretto dicendo che era un equivoco, così come si fa di solito quando si diventa politici. Insomma, dunque, dicevo, nell'italico stivale c'è sempre qualcosa che movimenta l'atmosfera, che avvince. Per esempio, i miracoli. Ma non quelli un po' popolari di San Gennaro, di Padre Pio, da Maronna. No, no. Quelli della finanza. Miracolo a Cortina e miracolo a Milano, il secondo dopo il film di De Sica, sono stati quelli più eclatanti, incredibile. Dopo il passaggio dei finanzieri, neanche fossero re magi, gli incassi di tanti commercianti si sono moltiplicati, tanto che ora si teme che tutti in tutta la penisola pretenderanno il passaggio delle fiamme gialle per poter ottenere guadagni maggiori. Loro non sono mica Babbo Natale, diciamolo. Ma i miracoli non finiscono qui. La metropolitana C di Roma, pur ancora non esistendo, è diventata d'oro. Sì, la spesa per realizzarla, il cantiere partito dal 90, è salita da 1 miliardo e 9 a 5 miliardi. Pensate quanto miracolosamente aumenta il valore delle cose nel tempo. Ma c'è anche qualcun altro in grado di compiere miracoli. Un senatore del PDL è riuscito, pensate, in poche ore a comprare, senza sborsare nemmeno un cent, un palazzo di 5 piani a Roma a 26,5 milioni per poi rivenderlo subito dopo a 44,5 milioni. Io, uno così in grado di compiere simili prodigi, e lo dico qui da Marte, gli affiderei il Ministero dell'Economia. Altro che zecchini di Pinocchio sotto l'albero nel campo dei miracoli. Questa sì che è gente che sa moltiplicare i pani e i pesci. Intanto, sempre nell'italica penisola, i giudici della Cassazione hanno deciso che via, non è obbligatoria la custodia cautelare in carcere per gli stupratori di gruppo, ci possono essere invece misure cautelari alternative, vista la fatica che hanno fatto i baldanzosi maci nell'alternarsi uno dopo l'altro sulla loro vittima, si potrebbe pensare, che so, per loro a un rilassante soggiorno alle terme oppure un resort con vista mare, e del resto che avranno mai fatto poi di male, ragazzacci. E dopo le varie situazioni a propria insaputa capitate ad alcuni, lo sapete, una casa con vista mirabile piovuta dalla stratosfera, una vacanza da sogno pagata da misteriosi benefattori, una scialuppa in cui accidentalmente scivolare da comandanti appena la nave fa acqua, ebbene finalmente qualcuno che dice le cose come stanno. Al senatore PD ex Margherita, quando i PM gli hanno chiesto perché avesse impunemente sottratto 13 milioni dalle casse del partito poi estinto, egli con molta semplicità ha risposto: perché mi servivano. Quando ti servono 13 milioni di euro per acquistare due modeste dimore e altri ammendicoli, si sa, ti servono, mica stai lì a contare gli spiccioli. A proposito di spiccioli, secondo voi, di chi è la colpa del costante, incessante aumento del prezzo dei carburanti? Gli inquirenti brancolano nel buio e pare che non sia stato nemmeno il maggiordomo, che insomma in genere è un buon capro espiatorio, ideale direi. E se non si può neanche più dire in questi frangenti, credo che non si possa neanche più dire basta un poco di zucchero e la pillola va giù, perché anche il prezzo dello zucchero, notizia di ieri, è cresciuto in modo esponenziale. Di zucchero la pillola va giù, la pillola va giù, pillola va giù. Basta un poco di zucchero la pillola va giù, tutto brillerà di più. Torniamo subito coi piedi per terra e da Piero da Belluno, insomma, che ha avuto una certa pazienza. Grazie Piero. Buongiorno. Buongiorno Piero, a te la parola. Allora guarda, io ho sentito tante di quelle cose interessanti, perché il mio argomento ormai è passato in seconda, no, non direi. In seconda importanza, è quello della neve a Roma. Non è così poco importante, diciamo che non è così poco importante, i disagi sono molto presenti. Grazie a Dio, io abito sotto il grappa, sono un po' tutelato. Allora, il problema è questo, vedo che a Roma ci saranno 5 centimetri, forse 10 nei sette colli, ma non di più. Allora dico, cosa sarebbe il resto dell'Italia? Non ho misurato, ma più o meno. Cosa sarebbe il resto dell'Italia? Dico con la stessa neve. Noi, a parte quest'anno che la neve ancora non l'abbiamo vista dalle mie parti. Disdetta, vedi? Dove doveva nevicare non è nevicato. E dove invece è una cosa, appunto, non ci sono però, più le mezze stagioni. Diciamo. Insomma, che il sindaco dica che è tutta colpa delle previsioni del tempo, perché gli hanno dato informazioni sbagliate, questo mi fa anche abbastanza sorridere. E poi, ma però il fatto non è quello della neve a Roma, capisco, una grande città viene paralizzata con poco. C'è il problema dei taxisti, ma non hanno detto che erano già in troppi e che non volevano concorrenza perché c'era poco lavoro per loro? Invece adesso mi si risulta che a Roma trovare un taxista sia impossibile, ma non perché siano occupati a correre, eccetera, ma perché proprio sono spariti. Allora dove sì, c'è qualcosa che non mi spiego, insomma, che non ti torna, Piero. Allora poi vediamo se c'è qualcuno da Roma che ci dice se trova un tassista in giro all'800 24 0024. Sentiremo poi cosa ne pensa Tito Boeri. A voi informo di questa cosa che Monti ha detto proprio in questi giorni: la meteorologia non è ancora sotto il controllo del governo. Quindi qualcuno dicesse nevica governo Lado, sappia che non è la meteorologia sotto il controllo del governo tecnico politico, perché ha detto anche alla fine l'ha messo, questo è un governo politico. Molte ascoltatrici e ascoltatori al numero verde 800 24 0024, di carne al fuoco finora abbiamo messa davvero moltissima. E c'è dunque Antonio da Vicenza? Sì. Antonio, buongiorno. Buongiorno a te. A voi. Volevo fare un intervento, diciamo, sul discorso del posto fisso lì di Monti, no? Sì. Praticamente io spiego, io sono qua, diciamo, opero in trasporto pubblico locale, no? Sono un traviere. Mm? Sono circa 26 anni che ho il posto fisso. Ti annoi? Dopo come? Sei annoiato per questo? No, guardi, dopo avere il posto fisso, no, adesso c'ho anche il turno fisso. Faccio il solito orario, molto meglio. Quello che vorrei dire che mi preoccupa del signor Monti, no? I tre posti fissi che ha lui è diciamo, fa parte della commissione trilaterale, gruppo di Bilderberg, Aspen Italia. Perché non si toglie da qui tre posti fissi, i gruppi di potere, che quando sono a nominarli fa venire il sangue gelido nelle vene? Capite com'è? Sì, ho capito Antonio, questa sì, è una polemica aperta da quando appunto è diventato Presidente del Consiglio. Antonio, ti auguro comunque, finché arrivi alla pensione naturalmente, di mantenere a lungo, fino alla fine, il tuo posto di lavoro, perché insomma, soprattutto visti i frangenti in cui stiamo vivendo. Astero, dico bene, da Bologna? Sì, Astero. Astero. Niente, volevo dire... Da dove viene questo nome? Scusa la curiosità, mi ricorda Asterix, ma una versione francese, no, c'entra? Asterisco? No, in greco significa stella. Stella, ah, scusa l'ignoranza. Bello però. Vabbè. Beh, complimenti. Devo ringraziare i miei genitori. Ringraziamoli. Astero, allora, buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, volevo, dato che si parla adesso di smantellare o comunque ridurre l'articolo 18, ho sentito in TV che in Germania l'articolo 18 c'è per le aziende sopra i 10 dipendenti. Qui sopra i 15. Dunque, tu sei sicuro di questo dato della Germania? Hanno detto, può confermare il dottor Boeri, giusto? Adesso glielo chiediamo, sì. È così? Adesso glielo chiediamo. Tito, è così? Ah. No, in Germania non c'è l'articolo 18, c'è la possibilità del datore di lavoro di scegliere tra la reintegrazione del lavoratore, quindi quello che in Italia è chiamato l'articolo 18, la cosiddetta tutela reale, oppure il risarcimento. In Italia invece non c'è la facoltà del datore di lavoro di scegliere tra le due possibilità. Però possiamo dire, Tito, richiesta deve reintegrare il lavoratore. Possiamo dire, Tito, che in Germania esiste tutto un sistema del mercato del lavoro ben diverso, con corsi di formazione, riqualificazione professionale, poi accompagnamento di chi perde il lavoro verso un altro lavoro, tutor e cose varie. C'è un sistema diverso o no? Sì, sì, no. Collegamento tra scuole e lavoro, università e lavoro. Il mercato del lavoro tedesco, sono state fatte delle riforme importanti 10 anni fa e quelle riforme importanti hanno giocato un ruolo molto davvero decisivo nell'andamento dell'economia tedesca in questi anni, che è andata molto bene, come sappiamo, e hanno anche permesso, tra l'altro, di gestire in modo molto meno drammatico che non solo da noi, ma anche in altri paesi, la grande recessione del 2008-2009, perché in Germania è stata pesante quella recessione, è stata praticamente, se guardiamo i dati sul reddito, forte come da noi, ma hanno saputo miracolo, in Germania la disoccupazione è diminuita durante la grande recessione e l'occupazione è aumentata. Loro hanno una cassa integrazione che funziona molto meglio della nostra, quindi anche su quello dovremmo cerchiamo di copiare un po', copiamo il buono. Astero, volevi aggiungere qualcos'altro? Esatto, è proprio quello che volevo dire io. Siccome in Germania comunque ho sentito che la disoccupazione è il 6,7%, i sindacati partecipano, per quello che possono ovviamente, in maniera limitata alla gestione dell'azienda. Sì, ma sono piuttosto potenti comunque, sì. Sì? Esatto, magari c'è anche una partecipazione agli utili dei dipendenti. Invece di... non si può andare in questa direzione, invece di parlare solo di poter licenziare la gente. Grazie Astero, credo che si possa essere facilmente d'accordo. Marco da Roma. Oh, Roma, Marco, come andiamo? Benissimo. Benissimo? Noi stiamo lavorando. Chi sei? Tutti i taxi sono in piazza. Sei un tassista? Esattamente. Dunque la 3570 è presente, anche le altre radio sono presenti, stiamo tutti lavorando, non capisco qual è il problema, c'è qualcuno che si lamenta, gli autobus sono fermi, noi stiamo lavorando. Quindi rispondi all'ascoltatore di prima che aveva detto che a Roma non si trova un taxi, dici non è vero. Noi non è stiamo così. Lavorando, guardi, sono qui a Piazza San Silvestro, ci saranno 20 taxi, stiamo lavorando tutti. Dunque la 3570 è presente, stiamo tutti lavorando e tutte le radio stanno lavorando. Sfido chiunque ad essere efficiente come un tassista. Marco, io intanto ti ringrazio della testimonianza, così ci hai detto sul posto come vanno le cose. Senti, la città complessivamente com'è? È così disastrosa la situazione, a parte i tassisti, insomma, che abbiamo capito ma che lavorano. È disastrosa, no. Insomma, la neve a Roma crea dei problemi, è evidente. È una città che ogni 27-28 anni subisce questa situazione difficile di neve, ovviamente non è attrezzata e non può attrezzarsi, perché non si può creare un ennesimo carrozzone sempre a spese del contribuente per ogni 28 anni risolvere il problema della neve. Il romano si deve attrezzare quando nevica, ogni 28 anni deve star tranquillo, starsene a casa. Senti, ma è vero che Alemanno ha invitato la gente a spalare? Stanno spalando? Ha fatto benissimo. Diamoci da fare tutti, dici tu. Senti Marco, ti sento bello pacato ma grintoso sotto sotto. Volevo dirti questa cosa. Tu lo sai, hai sentito che ci sono stati tagli ai costi della politica, si sono ridotti di 1.300 euro lordi lo stipendio. Sai che in realtà quei 1.300 euro erano lo stipendio, l'aumento di stipendio previsto nel passaggio del vitalizio dal retributivo al contributivo, e quindi è semplicemente un aumento a cui hanno rinunciato, al loro stipendio rimane tal quale. Ma rimane tal quale, non è che è stato tagliato quello che prendono ora, 11.000. Sei informato. Senti, questa cosa che effetto ti fa? Ma Ma che effetto mi fa? Sono sempre più scollati dalla realtà. Io direi che piuttosto che far fare, una volta si faceva fare il servizio militare al cittadino, no? Per crescere, per capire la realtà. Oggi io farei fare un corso di 6 mesi da tassista, si renderebbero conto tutti quelli che parlano male di noi di cosa significa portare gente in giro di tutti i generi, tutti i tipi, la realtà, la difficoltà, rischio ordine, tante problematiche che a tutti farebbe bene fare un pochino di tassista. Marco, ti ringrazio e buon lavoro. Grazie, allora. Cara, buonasera. Ciao Marco. Tito, ti volevo chiedere entrambe le cose, no? Quindi questo chiaramente sentirsi un po' nel mirino e quindi essere arrabbiato di Marco a proposito della questione liberalizzazione, tassisti eccetera, ma anche questa cosa dei tagli alla politica. È vero che il Senato rispetto al previsto risparmierà 6 milioni di euro, però diciamo che la verità è che quei 1.300 in realtà erano previsti come aumento, ma lo stipendio rimane tale quale. Quali delle due cose vuoi commentare, o anche velocemente tutte e due se vuoi, Tito? Sulle liberalizzazioni mi sembra che questa volta siano state abbastanza d'ampio raggio, per cui come i taxisti probabilmente anche altre categorie si sentono in questo momento colpite, questa è una cosa giusta di quel provvedimento. Peraltro sulla questione dei taxisti ci sono ancora molte decisioni che devono essere prese, mi risulta, no? Perché dovrà essere questa autorità per i trasporti che li prenderà e purtroppo ecco qui invece stiamo andando un po' a rilento nel definirla, anche perché invece un altro terreno sui trasporti fondamentale sarebbe quello dei treni, che davvero questo è scandaloso quello che sta succedendo in questi giorni con questi servizi di qualità così bassa, e non si permette che ci sia concorrenza, anche se probabilmente la concorrenza sarebbe su tratte forse più trafficate, però abbiamo avuto dei ritardi pesantissimi anche su tratte molto importanti in questi giorni, quindi più concorrenza anche nei treni farebbe bene, e invece ci sentiamo sempre dire con i treni che arrivano sistematicamente in ritardo, grazie per aver scelto Trenitalia, è davvero una presa in giro. Ma tornando invece alla questione dei politici, ecco, io qui credo che un modo efficace, non credo che ci sia bisogno di obbligare i politici a fare i taxisti, e penso che io sono contrario a coloro che hanno un atteggiamento negativo in generale nei confronti della classe politica. Penso che chi fa il politico è un mestiere molto importante, è un mestiere davvero che serve molto, perché bisogna trovare mediazioni, compromesse, quindi c'è una nobiltà nel fare politica, certo. Però chiaramente la nostra classe politica fa ben diversamente, si concede, come sappiamo, dei lauti compensi, noi li abbiamo calcolati, dal 1950 al 2010 lo stipendio dei parlamentari è cresciuto del 1200%, quindi circa il 10% all'anno, quando il reddito degli italiani cresceva di un terzo. Senti, a questo proposito, scusa Tito, mi viene anche in mente, no, che ci sono stati 26, se non sbaglio, soprattutto ex parlamentari, che hanno fatto ricorso in questi giorni perché non sono d'accordo col vitalizio di spostarlo ai 60 anni, di passare al metodo contributivo, e tra questi 26 ci sono ben 15 leghisti, c'è anche uno di Rifondazione, anche ex PD, però la metà, più della metà, è verissimo, no, ci sono molti. Maroni ha detto che si devono ritirare con questo ricorso, lo devono levare. Che sono entrati nella classe politica con la Lega, eccetera, che hanno assunto delle posizioni di tutela assoluta e di mantenimento di questi privilegi che sono davvero anacronistici, e poi sono contrari a quanto avviene in tutto il resto del mondo, perché da noi sono molto più pagati che altrove i politici. Ci sarebbe però un modo molto semplice per intervenire su questo aspetto. Il governo dovrebbe semplicemente, in sede di manovra di bilancio, ridurre le dotazioni di Camera e Senato, siccome è il governo che decide questo, e le remunerazioni di Camera e Senato non sono qualcosa di fissato dalla Costituzione. Quindi governo Monti, tecnicamente cerca di tagliare qua e là. Potrebbe benissimo dire: io do al Senato e alla Camera meno soldi, e a quel punto saranno le presidenze di Camera e Senato che saranno obbligate a rivedere i compensi. Anche perché, attenzione, molti dei compensi dei politici sono tutt'altro che trasparenti, perché hanno per esempio tutte queste rimborsi per gli assistenti che poi dopo magari non li pagano, una miseria, sì. Che sono sono tassati. E in secondo luogo, tra l'altro, la cosa grave è che qualche volta magari assumono anche dei collaboratori, ma spesso li assumono in nero, e quindi se invece fosse tutto centralizzato dalle presidenze di Camera e Senato, loro i conti sono più trasparenti, danno soltanto compensi a fronte di giustificativi, ecco, a quel punto probabilmente riusciremmo ad essere molto più incisivi su questo e ad avere dei risparmi significativi e soprattutto ad evitare che ci siano delle aberrazioni nell'esercizio dell'attività politica. Velocemente volevo chiederti, Tito, tu, il freddo mi fa venire in mente i pinguini, no? Tu affideresti un uovo alla ricerca di una famiglia ideale a una coppia di pinguini omosessuali? Sicuramente non... I pinguini sono molto attenti nei confronti dei piccoli. Vero? Normalmente quello che succede è che i piccoli pinguini rimangono in attesa per giornate intere. Tra l'altro mi risulta per esempio che in Australia i piccoli pinguini vivono nel porto di Melbourne e arrivano ogni tanto i loro genitori, ci sono queste poi folle, non dico oceaniche, forse sarebbero oceaniche perché in effetti sono vicine all'oceano, che aspettano l'arrivo di tutti i genitori, sono comunque dei genitori molto attenti e credo che anche se fossero omosessuali sarebbero molto attenti nei confronti dei piccoli. Vedete come anche esperto di pinguini, Tito Boeri, questo ve lo dico perché c'è un po' diventato un caso politico, un libricino di Altan a Milano che dovrebbe essere usato nelle scuole elementari, se non sbaglio, un libro di Altan, l'autore della Pimpa, no? Che ha fatto questa storia di piccolo uovo, questo uovo è alla ricerca di una famiglia e trova questi due pinguini omosessuali che lo vogliono adottare. Questa cosa si lega a un altro impegno che ha preso la ministra delle pari opportunità Elsa Fornero questa settimana, dicendo: io mi impegno per i diritti di omosessuali, di transgender, il mio impegno è pieno, la diversità, dice, è un valore, deve essere tra le cose che i bambini imparano sin da piccoli, perché lì si gettano i semi per integrarsi, per essere gli uni vicini agli altri, per rispettare la diversità, dice che è un valore. Subito è saltato su Carlo Giovanardi del PDL, responsabile delle politiche della famiglia del PDL, che invita a non aprire, dice, strumentalmente un dibattito sul riconoscimento delle coppie gay o addirittura sul terreno delicatissimo dell'educazione alla diversità nelle scuole. Devo dire che sono veramente tanti e belli i commenti dell'ascoltatrice e degli ascoltatori sulla pagina Facebook. Ne leggo proprio velocissimamente qualcuno perché sono tanti. Corrado dice: il mio sogno è un giorno leggere Giovanardi si sente male durante festino a base di coca. Vabbè, era in compagnia di Treviados che hanno chiamato soccorso. Margherita: per motivi di carità cristiana ho deciso che per principio non commento mai Giovanardi. Tosta la Fornero però, dice, l'altro giorno dalla Gruber ha detto che non ama le imposizioni, ma visto che siamo il paese che siamo si potrebbe prendere in considerazione l'obbligatorietà dei congedi parentali per i padri. Stand innovation alla ministra. Raffaele scrive: mi piace la Fornero, con o senza lacrime, su Giovanardi, che dire, tristezza, condivido l'educazione, la diversità dei cuccioli, comunque loro sono già abituati a tutto. Franco: ma questo governo tecnico mi sembra troppo attivo, non dovrebbe fare di più, non li ha votati nessuno, quindi è contrario. Giuliano dice: mi domando se Giovanardi si sia d'accordo che qualcuno ha inventato il motore a scoppio, il frigorifero e lo stato laico. E poi molte altre: Alessio, Gianluca, Dora, Francesca, Bianca, insomma molti messaggi. Ma adesso abbiamo anche il punto di vista, naturalmente, mentre tra poco chiedo ancora un attimo di pazienza a Claudia e la nostra Maria Laura Rodotà del Corriere della Sera. Cosa ti ha colpito in questi giorni, Maria Laura, che ci vuoi raccontare? Pronto? Eccoci. Ho una connessione pessima, sarà la neve a Roma. Insomma, anche la connessione, dice, i tassisti vanno bene, tutto va... stai spalando tu, Maria Laura, ti hanno messo a spalare un po' di neve? No, però nessuno sta spalando. Ah. Cioè, siamo in giro da stamattina e non abbiamo visto una pala, un furgone, un camion, un addetto che spala. È tutto, come dire, al buon cuore. Tu ce l'hai il buon cuore, Maria Laura? Prendi una pala se ti capita. Molto buon cuore, ma non ho una pala, purtroppo. Comunque, sì. Non sentivo bene, ma anche Giovanardi si è pronunciato contro i pinguini gay. Sì, sì, una roba, dice, uno scandalo. Adesso c'è la centrodestra a Milano che dice questa cosa va discussa il 9 febbraio in giunta, questa cosa va bloccata. Che ne pensi? Ma penso che il centrodestra, così come si concepisce, ha senso che si opponga. È l'opposizione del centro-sinistra che mi preoccupa. E su questo possiamo essere naturalmente molto d'accordo. Grazie Maria Laura Rodotà. Grazie a voi. Da Roma, buona neve anche a te. E poi Claudia da Pavia. Tu riesci a essere sintetica? Perdonami Claudia, ti chiedo scusa veramente in modo accorato. Buonasera. Sì, cercherò di essere sintetica. Volevo solamente dire, anzitutto, che non mi sembra il caso di pensare che qualsiasi cosa dicano i sindacati sia da accettare come fosse la Bibbia. Insomma, questo articolo 18, non so, per quanto mi risulta, forse il dottor Boeri ci può dire se è così, non mi pare, per esempio, che si applichi a loro l'articolo 18. Non capisco il perché. Comunque io volevo semplicemente dire che per quanto riguarda me stessa, io lavoro ancora nonostante abbia raggiunto i 69 anni di età e appunto sono riuscita, come dire, a inserirmi molto facilmente nel mercato del lavoro perché ho iniziato a lavorare negli Stati Uniti, dove sto parlando di 45 anni fa. Claudia, perdonami, mi dicono che devo chiudere. Ho capito, quindi tu hai un percorso professionale molto particolare. Adesso non credo che basti lavorare all'estero per poi rientrare. Ho per esempio amici all'estero, anche molto valenti, che rientrando pensano di vedere svilire poi la loro professionalità. E Valeria Della Valle, ecco la nostra linguista di Roma, che in pochi secondi ci dirà: perdonami Valeria, anche tu, so che sei romana, anche tu, non so se stai spalando, ma vorrei chiederti, ma questa monotonia, se è monotona la neve lì? Questa monotonia, allora partiamo dall'aggettivo monotono, che viene dal greco monotonos. Il significato originario era riferito però a suoni, voci, rumori, quindi significava che conserva sempre lo stesso tono. Poi nel tempo è passato al valore di qualcosa che suscita noia e stanchezza proprio per la sua uniformità, per esempio un lavoro monotono. Poi l'aggettivo è stato riferito però anche a persona che fa o dice sempre le stesse cose fino al punto di risultare molesto e fastidioso. Che cosa ne possiamo trarre come morale, come al solito? Meglio stare alla larga da questo aggettivo, perché chi dice che il lavoro fisso è monotono potrebbe a sua volta risultare monotono, ma in quale significato? In quello che dicevo prima, cioè il significato di molesto, fastidioso, uggioso. Grazie Valeria Della Valle, siamo piuttosto d'accordo. Invece in chiusura, Tito Boeri, mentre ricordo che potete riascoltare la puntata su radio24.it o sulla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni, sai che alla Meridiana, la compagnia aerea, Tito, hanno chiesto alle hostess di dimagrire, gliel'ha detto la moglie Cristina Coelin, che è dirigente della compagnia aerea, moglie dell'amministratore delegato, gli ha detto dovete dimagrire taglia 42, si sono rivoltate, non è svilente per la dignità femminile, e secondo te magari tante proteste per nulla, invece magari vogliono alleggerire l'aereo e pagare meno carburante in momento di crisi, Tito? In due parole. A me basterebbe che facessero dimagrire le tariffe, perché mi risulta che sui voli Meridiana costino davvero tantissimi perché sono in una posizione di monopolio. Molto bene, con questo ci salutiamo, ciao Tito Boeri, da Roberta Giordano, Sereni Orizzonti, a tutti.